Che bella scultura. Allora, chi racconta, signor Alessandro, cosa stiamo facendo? Siamo andati in giro per il paese a raccogliere interviste. Insomma, noi siamo andati nei negozi per chiedere le professioni e i lavori che facevano gli altri, per capire un po' quali sono le loro passioni e cosa gli piace fare veramente. Cosa avete scoperto? Cosa avete scoperto, ragazzi? Vi raccontate un po' ad Alessandro, che adesso si presenta ovviamente, ma cosa avete scoperto in questi incontri? Abbiamo scoperto le passioni della gente e perché hanno scelto il proprio lavoro e le loro passioni di quando erano piccoli, o se hanno preso un negozio in eredità oppure comprato da poco. Abbiamo conosciuto un sacco di gente, prego. Praticamente anche quando durante il tempo libero vanno a fare dei passi. O stanno con i loro nipoti che non vedono da tanto. Cioè hanno degli hobby anche, no? Sì. Poi abbiamo scoperto che tutto quello che si fa dietro c'è tantissimo lavoro, tanto impegno. Questo è importante. Sì. E dietro le quinte. Insomma, abbiamo ascoltato persone molto che fanno dei lavori molto diversi, vero? Uno dall'altro. Però la cosa che accomuna, che abbiamo cercato di tirar fuori queste parole chiave, vi ricordate un po' da raccontare ad Alessandro? Passione, lavoro, studiare. Comunicazione, fatica. Benissimo. Altre? Fatica. Che poi anche per fare i lavori, cioè, bisogna sapere ascoltare e soddisfare i clienti. Cercare di soddisfare i clienti, perché così sai che potrebbero venire un'altra volta se li soddisfi. Benissimo, è molto bella questa cosa di saper ascoltare, molto bella questa cosa. Altre cose che possiamo raccontare ad Alessandro? Ok, allora i ragazzi e le ragazze hanno presentato delle domande, se le sono scritte loro in classe, e vediamo un po' cosa succede. Ecco, prego. Sì. Come si chiama? Mi chiamo Alessandro Pavone. Che lavoro fa? Faccio lo scultore. Cosa fa di solito? Dimmi, scusa, non ho capito. Cosa fa di solito? Intendi durante la giornata, cioè come si svolge il lavoro? E allora, diciamo che è un lavoro molto vario. Nel senso che se ho da fare una scultura, che ho già in mente cosa fare, probabilmente devo prendere un pezzo di pietra o di legno, comincio a lavorarla. E se invece sto cercando di capire che cosa mi interessa o come voglio fare una forma, passo le giornate leggendo o disegnando. Quindi è un lavoro che mi dà la possibilità di vivere ogni giornata diversa dall'altra. Per fortuna. Quanti anni ha? 49. Perché hai scelto questo lavoro? Posso risponderti in una maniera un po' difficile, che in realtà sembra difficile, ma è più facile. Tu scegli di respirare? Sì. No. Scegli? No. Ecco, è successo così. Proprio dovevo fare questa cosa, perché se non avessi fatto questa cosa sentivo che non stavo bene. Lo rimandavo, lo faccio un'altra volta, lo faccio quando andrò in pensione, e invece ho scelto di fare proprio quello che sentivo che dovevo fare. Avete mai provato questa sensazione di dover far qualcosa? Di fame. Come respirare? Sì. Che si chiama, come possiamo definirla? Passione, forse? Passione? Ok. Lo sai. Chi è che fa la domanda? Ha fatto altri lavori in passato? Sì. Ho fatto tanti lavori, molto diversi, ma proprio tanto tanto diversi uno dall'altro. Poi ho lavorato un pochino come carpentiere, ho caricato i camion, ho fatto le vendemmie, ho raccolto le mele, Ho fatto volantinaggio, l'avevo aiutato un muratore. Hai fatto un po' di tutto. Un po' di tutto e dopo ho lavorato per degli allestimenti delle mostre, ho lavorato per un po' per il teatro, un po' per la televisione. E dopo, come vi dicevo prima, pensavo di fare la scultura un giorno, invece per fortuna ho scelto di fare solo questo da un po' di anni. Ti sei mai pentito di una tua scelta lavorativa? Diciamo che più spesso mi sono pentito di non aver fatto delle cose che di averle fatte. Cosa l'ha portato a questo lavoro? Per non ripetere la risposta che ti ho dato prima, direi che è il piacere della ricerca. A che età hai iniziato a fare il suo lavoro? A fare sculture che io ricordi da sempre, ma a farlo professionalmente, nel senso ricavarne denaro per vivere, da 20 e qualcosa anni. Vale. Lavori a tempo pieno oppure fai pausa pranzo? Lavoro tra un pranzo e l'altro. Ti trovi bene a fare il tuo lavoro o vorresti cambiarlo con qualcos'altro? No, io col mio lavoro mi trovo bene. Mi piace fare questo lavoro. Qual era il suo sogno da piccolo? Subito dopo i sogni che si hanno proprio da piccoli, poco dopo sognavo di fare l'artista. Hai altri negozi? No. Questa è una vetrina che ho da 2 anni. È sua? No, sono in affitto. E dentro però posso fare dei lavori proprio piccoli, come disegnare, fare dei modellini in creta, per delle problemi proprio di spazio. Attualmente sono alla ricerca di uno studio perché non ho uno spazio dove scolpire, però è molto difficile trovare uno spazio adeguato per la scultura, perché è un lavoro che fa tanto rumore, sporca, e non è facile, come si pensa, trovare un posto adeguato. Sei laureato oppure no? Diploma di laurea si chiama, è l'Accademia di Belle Arti a Venezia. Sì. Da piccolo qualcuno mi ha trasmesso questo lavoro o lavoro guarda, da solo? Visto che prima mi dicevi se c'erano altri scultori sull'altopiano, mia nonna dipingeva per passione, ma non viveva dei proventi della sua arte. Però ho sempre avuto una nonna che in casa aveva colori a olio, tele, questo genere di cose. Ma in realtà la prima volta mia nonna mi ha portato a vedere una scultura che era esposta qua a Folgheria, lì dove c'era una volta il Mastro Paolo, dove adesso c'è quel negozio di vestiti. E c'era uno scultore che mi aveva spaventato, però quello che aveva fatto mi aveva impressionato ed era il papà di Florian, che era il Cirillo Grotto. Io ero piccolo, ma proprio piccolo, però ho perfettamente il ricordo di questo, mi aveva dato l'impressione di un mangiafuoco, insomma. E poi la magia, quando tante volte mi dicono ma come fate la magia di tirare fuori queste forme dal tronco, io ricordo la magia che avevo provato nel vedere quella forma nascere da un tronco, uscire da un tronco. Ma dietro a queste sculture quanto tempo ci mette a farle? Ti do una risposta un po' provocatoria che do a quelli che mi chiedono ogni tanto, ma quanto ci hai messo, quanto costa? E gli dico che ci ho messo 30 anni, nel senso che tutto quello che studi poi per fare una cosa la fai rapidamente. Se tu sei uno sciatore, quanto tempo impieghi a fare una discesa, no? Però quanto ti sei allenato? Beh, ho questa vetrina, ad esempio, per farle vedere alle persone che passano qui davanti. Ed è incredibile pensare a un paesino come Folgheria, anche se c'è il turismo, però pensare che ogni tanto mi ha telefonato delle persone che non ti aspetteresti mai che passano da Folgheria. Ma delle persone che vengono da, non so, dal Giappone o... E ti dice, come mai sei passato qua davanti? Magari aveva un amico, magari sono andati al ristorante, magari passavano. Quindi per questo la vetrina per me è importante. Sì, dopo qualcuno mi ha contattato in internet, ma la maggior parte delle persone mi viene a cercare perché qualcuno gli ha parlato di me. Quindi molto spesso il passaparola è più importante di tutto. Come sono a contattarla? Col telefono. Mi telefonano o mi mandano un'email. È interessante la tua domanda perché alla fine potremmo anche ragionare su questo aspetto. Chi compra arte? Mm. Cioè, voi avete in casa oggetti artistici? Sì. Sì. E che sensazioni vi danno in casa? Abbellisce la casa. Bellezza, poi possiamo andare un po' più soddisfazione a fondo. Rustico. Soddisfazione di averlo, rustico. Però se certe persone non ti piacciono... A me piace, se tipo uno non piace, a me piace. Ma la mia domanda è ben chiara. A me piacciono perché le ha. A costruire, ma la maggior parte delle cose l'ha costruito mio papà. E a me piacciono perché sono anche di qualità. Cosa vuol dire qualità? Pregiate, cose un prodotto buone. È buono, come dire, ma anche consigliato da molta gente. Proviamo a cercare dei termini, perché è interessante questa cosa. Pregiato è di marca. Ma marca, ok, ci sta anche questo. E robe artigianali. Quindi è fatto con le mani. E quindi che valore ha questa cosa qua di essere fatta? Tanta, perché comunque... Perché metti che se hai le macchine... È tutto più facile, se invece fai un lavoro a mano e sprechi tempo tuo quando potresti usare una macchina, il costo dopo è sempre più. E poi anche perché è unico, perché non ci sono tutti i dettagli. Benissimo, il pezzo unico, è fatto con le mani, ma mi interessava questa cosa se vi dà qualcosa, cioè se vi regala delle sensazioni avere un oggetto artistico in casa. Possiamo definirle queste sensazioni? Ogni tanto mia madre, che ne so, un po' di tempo fa ho comprato un quadretto da prendersi vicino alla camera perché era vuoto. A me non mi dava niente perché non mi piaceva. Non ti piaceva? Non era il mio stile, come certo, dire. Certo. Però se trovi qualcosa che ti piace, sei disposto a comprarlo? Sì, perché come hanno detto loro, quando lo guardi ti piace, nel senso ti dà per te è più bella la stanza, come... Però per altri non potrebbe essere lo stesso, ad altri potrebbe non piacere. Ma cosa vuol dire avere qualcosa di bello in casa? Vivere con qualcosa di bello? Una cosa che ti piace e per te rende tipo, non so, speciale casa tua. E rende speciale casa tua? Che sai darne un valore. È un valore. Ok. Ti chiedo di immaginare questo lavoro, come molti altri lavori, ma in particolare questo lavoro che... Cioè le cose che ti danno più libertà in realtà sono quelle che richiedono più... Concentrazione? Più regole. Cioè il fatto di poter andare ovunque poi ti costringe a scegliere dove andare. Non c'è nessuno che ti dice dove andare, non c'è nessuno che ti dice di fare una forma bianca, nera, alta o bassa. Questa libertà ti crea lo stesso terrore che ti può creare un foglio infinito e bianco. Allora... Immagina quando tu mi hai detto il blocco molte volte ha a che fare con la paura di sbagliare. Se tu non hai paura di fare quello che gli altri si aspettano da te, è molto più facile divertirsi, primo. Secondo, prova a immaginare il lavoro che fa un minatore che va a cercare dei diamanti o dell'oro sottoterra, no? Che va a scavare. Ecco, quando diceva anche Davide prima, se cade il fulmine dal cielo o se è come coltivare un orto. È questione di metodo, concentrazione, di lasciare che tu certi giorni ti puoi meravigliare di scoperte, ma è anche questione di continuare a scavare con insistenza in un punto perché tu pensi che là c'è l'oro. Quel blocco, riassumendo, secondo me, ha a che fare di un momento in cui ti manca il coraggio, l'intuito, la libertà. È quasi sempre colpa o della fame o della paura, che anche quelle sono legate. Insomma. Mi hai seguito bene? Ecco, quindi mai paura.